fare aspetta che mi metti in sabato. Agenti speciali Alexandro Nel a rapporto. Ok, fanculo a tutti così, tanto per non sbagliarmi. Mentre battete le mani io porto il rap davanti. Io trovo stili dalle falde acquifere. Il best è il primo rapper ligure col distintivo tra le briciole. Questo è gente speciale 18020. Con la zappa e la vanga a togliere carne tra i denti. E quel ciabatte mixtape non fare il grande. Ma quale Roger Moore? Al massimo tu sei Steve Carell. Roger porta il tavernello mentre Mello è nel suo studio come uno scolaretto modello. Fred, ferma quello! Noi portiamo l'unica missione, fare in modo che il mio vicino vecchietto dica che figo l'anello. Alta valle con licenza di bere, di benedire dall'alto della saggezza di vecchie balere. Antonio Vale porta l'arma finale per sconfiggere il male. 16 balle ti faccio incarcerare. Sono agente rapper nel segreto, avveleno e poi sdereno. Finti gangster analfabeti di Sanremo. Io spingo solo il vero sabotando le cazzate. Qui mi chiamano l'agente 00 sacche. Con le scarpe pitonate che nascondo strumentali che ti danno fucilate. Piazzi radio comandati, auto nera tutta in pelle con un woofer tanto grande che se metti in play va in palle. Prende il volo la volante, incido sul vinile con la punta di diamante. Io c'ho troppi super gadget, sparo laser dal quadrante. Messo dentro all'orologio, lo si aziona dalle suole. C'è su scritto 89, sotto l'incisione Rolex. Single suono che non muore, lui si infiltra e poi vi morde. Anonimato, zero stress, fino alla morte. Roggi Alex, Bell Effect, qua vi spingono alle corde. Questa è il Secret Samba Imperia, strofe in alfabeto morse. Agenti speciali, Fat MC, Roggi Luciano, a rapporto. Oggi mi vesto nero per davvero sotto un cielo. Vedo nero, accendo un cero di chi spegne la fiamma del proprio cielo. Agente underground, zero come Von, va così. Sono Fat, mami, puoi chiamare Fat MC. Sì, sono agente speciale, missione subnazionale. Sottoterra sul blues lessicale. Ma pare che si debba rimappare lo stivale. Per questo un auricolare che comunica con Roggi Alex. X nel laboratorio con i dischi Mel. Taglia classici divisi in suoni sport per le gemme, fre, io c'ho la muta con lo smoking nell'interno. Si bagna la mia penna nell'inchiostro sul quaderno. Confermo il comando che mi è stato dato. Col tempo rimango comunque immutato. Fat MC, overkill, fine imperia guida sperla. La passo dopo il grasso, c'è Roggi, saluto bella. Bella Melle, bella Fette, bella Frey, Alex Antonov. Cervelli saltano in aria come col plastico. Cadono lacrime, lamine sul pentagono. Piangono in chiesa due frati che si decapitano. Se l'abito non fa il monaco minimo, chiami il sarto. Sbagli i vestiti al diavolo, è un sarto santo. Ma d'altro canto ha le stigma ti addosso e sa dividere il mar rosso ed estate anche l'Adriatico. Roggi Luciano è sulla base acrobatico. Non c'è preambolo, salti in aria come un funambolo. Se cerchi nuovi codici chiedi a Sean Connery come nel film. Io bevo 007 gin perché l'MC quando è lirico nel rap per me è tipico di qua come il basilico di Pra. Sicuro ho rime segrete come un agente da Zena fino al ponente vi saluto. Missione compiuta.